L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale parliamo di acqua in occasione della prossima apertura di una mostra convegno a Venezia la prossima settimana, che si chiama WOTEC ed è dedicata alle tecnologie per il trattamento delle acque ed il controllo ambientale. Spigolando tra i partecipanti abbiamo individuato due relatori che abbiamo contattato per farci anticipare un po' i temi dei loro interventi. Il filo tra i due è l'Unione Europea e quindi il rapporto dell'Unione Europea con l'Italia sui temi ambientali legati all'acqua, ma anche il rapporto che l'Italia può avere con l'Unione Europea per finanziare alcuni interventi sulla rete idrica che sono necessari nel nostro paese. La prima nostra ospite è Vania Contraffatto, assessore della Regione Siciliana all'Energia e Servizi di Pubblica Utilità, dal 2015 anche commissaria per le opere necessarie alla gestione del trattamento delle acque reflue. All'epoca, infatti, secondo le statistiche del Ministero delle Infrastrutture, ogni 10 comuni siciliani, 6 erano sprovvisti di sistemi di depurazione norma, una mancanza per le quali l'Unione Europea aveva fatto scattare le procedure di infrazione, procedure che presto si trasformeranno in sanzioni che pagheranno tra l'altro gli isolani. Sappiamo tutti che quelle per la depurazione non sono le uniche procedure di infrazione europee in materia ambientale nei confronti della Sicilia, ma oggi facciamo il punto su quelle e in particolare abbiamo chiesto alla commissaria Contraffatto di spiegarci a che punto sono i lavori per rispondere all'emergenza che chiaramente c'è nell'isola. Come sapete, appunto, in virtù del decreto Sblocca Italia sono stata nominata commissario straordinario. È stata una prima applicazione di questa legge, quindi i primi mesi sono stati dedicati a capirne il funzionamento, perché essendo appunto una prima applicazione ancora la legge stessa non aveva fornito degli strumenti di lavoro idonei, strumenti che sono stati creati, e così finalmente ad agosto sono ho potuto far partire le prime gare di progettazione per quei siti che ancora si trovavano in una situazione di immobilismo tale per cui non esisteva neanche un progetto da poter realizzare, nonostante fosse stata prevista già in delibera CIPE 60 il finanziamento per le opere. Sono anche stati stipulati i contratti per quelle situazioni dove invece la progettazione già c'era e quindi si può procedere con la redazione del progetto definitivo. E con riferimento invece alle realtà in cui la progettazione esisteva, era già stata vinta una gara, stiamo procedendo all'aggiudicazione, sto procedendo all'aggiudicazione affinché i lavori possano partire in tempi brevi. E, purtroppo si è potuto iniziare solo ad agosto con operazioni, chiamiamolo così, materiali che possono essere viste e riscontrate, perché pur avendo dotato il commissario di una contabilità straordinaria, questa contabilità, questo chiamiamo un grande contenitore, questo conto corrente è vuoto, nel senso che siccome una è straordinaria una parte... anche la sua capacità di tirar fuori i soldi, quindi deve essere questo, diciamo, c'è stata la collaborazione assoluta del governo, perché spiegato loro che la contabilità speciale funziona per cassa, cioè se non c'è l'intero importo versato, chiamiamolo così, su questo conto corrente, non è possibile far partire, impegnare neanche un euro. E allora fatto comprendere questo meccanismo è proprio di luglio un decreto legge che poi ad agosto è stato convertito in legge, che consente al commissario straordinario di far partire gare e procedere con le progettazioni e con gli affidamenti per competenza, non per cassa, quindi anche a conto corrente vuoto, perché le somme ci sono e quindi virtualmente, anche se non messe materialmente in questo conto corrente. Quindi quando i soggetti che hanno vinto le gare porteranno all'attenzione del commissario le loro fatture e i loro titoli di pagamento, il commissario li girerà alla regione o allo Stato a secondo la quota e appunto la competenza per averli liquidati. E quindi ad agosto ce l'avete fatta. Ce l'abbiamo fatta, dico, fermo restando che questi mesi però non sono stati infruttuosi, perché come lei saprà, dico anche dalle cronache, gli interventi commissariati in Sicilia sono 80 su 42 realtà comunali, per cui in questi mesi si è proceduto ad acquisire presso ciascuno di questi 42 comuni tutta la documentazione inerente agli 80 interventi. Le prime 5 gare sono state bandite in agosto, sono state firmati anche i contratti per quegli interventi che erano in fase più avanzata e contiamo di proseguire con una media, speriamo, di 5 interventi ogni 3 settimane. È questo la roadmap informale che ci siamo dati con la struttura di supporto al commissario. Siete riusciti a fare una roadmap anche che possa poi organizzare un servizio migliore, non frammentato magari, quindi avere in questa occasione ragionare su sistemi più grandi? Allora, questi interventi prevedono già dei depuratori consortili, perché ricordiamo che io subentro solo sulla parte depurazione, quindi su uno solo dei momenti del servizio idrico integrato nella mia qualità di commissario, per cui per alcune realtà, anche se i comuni sono 42, poi gli interventi sono di depuratori consortili, che quindi riguardano più realtà territoriali, solo che a sua volta in linguaggio tecnico l'intervento non è uno solo ma è più d'uno, perché uno riguarda il collettamento fognario, uno riguarda magari la sistemazione delle reti e un altro la realizzazione del depuratore in quanto tale, ma depuratore che, ripeto, deve servire e servirà più realtà territoriali limitrofe. Lei diceva all'inizio che per alcuni non ci sono nemmeno i progetti, vero? Per alcuni interventi da realizzare. Per alcune realtà, e facciamo nomi e cognomi, come quella realtà di Acireale, non c'era da parte dei comuni interessati neanche l'individuazione del sito. Ancora litigano, cioè litigavano politicamente se farlo in pianura, farlo su una montagna approfittando del declivio naturale, la pendenza della collina, e tuttora non nascondo che vengo continuamente compulsata da vari rappresentanti di vari schieramenti politici, perché vorrebbero interloquire anche con il commissario per dire la loro sulla localizzazione, nonostante abbia detto che siccome compito del commissario è quello di accelerare e realizzare la cosa, sarà bandita una gara per uno studio di settore a cui mi auguro parteciperanno le università siciliane, ma anche università di realtà non siciliane, mi auguro italiane, che facciano uno studio che si basi su dati tecnici e realtà geomorfologiche, e non perché fa più comodo averlo lì in quella zona, perché così il politico di turno può dire l'ho fatto mettere lì oppure non l'ho fatto mettere là, perché arriva il cattivo odore a chi magari abusivamente si è costruito in questi anni un'abitazione in quella zona in spregio a piani regolatori o simili. Beh, ecco, chiarissimo, questo è il contesto, certo, come alcuni contesti, non tutti, però qualcuno... Ecco, no, tutti, no, qualche contesto c'è, è logico che più tra l'altro, indietro si è nella realizzazione sull'opera, più si consente il dibattito sul nulla, ecco. Certo, senza considerare che poi lei si occupa in particolare appunto di depurazione, qui parliamo di Acireale, ad esempio luoghi, insomma, di altissima, fortissima presenza turistica, insomma, sembra impossibile che non abbiano ancora neanche deciso dove fare questa cosa, non solo che non ce l'abbiano, ma insomma. Esatto, quindi quello che dico io, se lo fine... Stato ritiene di nominare un commissario perché voi non sapete decidere, e quindi deciderà sulla base, ripeto, di regole tecniche, non, sì, di non di convenienza. Non di convenienza o lanciare i dadi, ascolto, per carità, perché io ascolto tutti, però poi le decisioni verranno prese su argomentazioni, ripeto, di natura tecnica, studiate, controfirmate e valutate con dati tecnici. Bene, buon lavoro allora. Grazie, ne avrà bisogno. Grazie, buona giornata. Grazie. Era Vania Contrafatto, assessore della Regione Siciliana, commissario per le opere necessarie alla gestione del trattamento delle acque reflue. Tra poco ci ritroviamo per parlare ancora di acqua, ma questa volta in relazione ai finanziamenti che l'Europa può dare per interventi sulle reti idriche. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini con l'assessore Contrafatto della Regione Siciliana. Poco fa abbiamo parlato di quanto l'UE pretende e sanziona nell'isola, ma in generale in Europa, ma c'è anche quanto l'Unione Europea può dare. E di questo parliamo con un esperto di finanziamenti europei come Francesco Pareti. In passato ha ricoperto ruoli dirigenziali a Eurosportello e Unioncamere del Veneto. Ora è direttore esecutivo di Lubna, una società specializzata nel reperimento di finanziamenti. Ci spiega però lui meglio di che si tratta. Io adesso mi occupo sempre di finanza europea, chiaramente a fianco sia enti pubblici che aziende. Il tutto per andare a portare finanza di progetto, quindi con la BEI e gli istituti, altri istituti finanziari europei come il Fondo Europeo degli Investimenti, più tutta la parte che invece riguarda le cosiddette call for proposal, quindi gli Horizon, tutto ciò che è legato all'Unione Europea ed è finanziato anche con sovvenzioni, ecco, non solo finanza. E a questo punto viene spontaneo chiederle se davvero, come si dice tante volte, l'Italia non è capace di cogliere queste opportunità. Ma io non sono così convinto di ciò. Sono convinto che l'Italia eccelle in alcune cose e in altre meno. È prima nello strumento, per esempio, PMI, che è questo nuovo strumento dedicato alle piccole e medie imprese all'interno di Horizon. Su altri temi è più carente, ma non è vero, c'è un'enorme partecipazione, una qualità che non è sempre eccelsa, però non la vedo così. E quindi ce lo diciamo un po' per giustificarci, non lo so, perché ci diciamo questa cosa continuamente? No, ce lo diciamo perché sicuramente spendiamo male e probabilmente possiamo fare molto meglio, dato il livello tecnologico, un'industria manifatturiera che copre tutti i settori, dovremmo essere tra i primi sicuramente, ma non siamo gli ultimi della fila, ecco. Allora, per quanto riguarda invece l'acqua specificamente, sì. Quello che poi appunto lei presenterà a Venezia, sì. Che cosa c'è per l'acqua in funzione? Sì. Guardi, l'Unione Europea ha delle sfide davanti, come sempre lavora con dei programmi che sono i libri bianchi, i libri verdi, di cui lei sicuramente ha sentito parlare, ma diciamo che ha la sfida grande, che è quella di riconoscere il valore vero dell'acqua. Dietro l'acqua girano 68 triliardi di euro nell'Unione del commercio mondiale, diciamo del PIL mondiale, è il 90% è dipendente dall'acqua, e si sa che e si prevede, l'Unione Europea prevede una crescita dell'uso dell'acqua del 55% da qua al 2050, e d'altro canto sappiamo che quasi il 90% dei bacini fluviali, il 50% delle acque di superficie e mi pare il 33% di quelle invece di falda sono inquinate. Quindi di lavori ce n'è di tutti i tipi. Esatto, c'è una grande sfida, è la sfida di una gestione del ciclo dell'acqua che è integrata, non è più l'acqua da bere o l'acqua per uso industriale, ma si sa che l'industria, l'agricoltura, le famiglie e tutto quello che poi è l'acqua potabile, abbiamo multipli utenti con multipli usi, una governance che ancora è tutta frammentata perché le municipalizzate guardano a una componente, le industrie un'altra, le famiglie un'altra, diciamo. Quello che sta cercando di fare l'Unione Europea per innovare è quella di avere praticamente una governance completa. Che come il ciclo dell'acqua sia integrata, insomma, esatto. Diciamo. Si deve integrare il ciclo dell'acqua insieme al ciclo della governance, chiamiamolo. Comunque senza una governance coordinata non si può avere un ciclo dell'acqua. Che anche questo della governance, che noi reputiamo essere un problema italiano, poi mi è parso parlando con associazioni europee così, che non sia del tutto italiano. Ad esempio la Francia ha una gestione anche lei a esatto. Volte grossissima ma a volte minuscola, e quindi ecco perché dico non ci dobbiamo sempre bastonare da soli, diciamo. Ci sono delle eccellenze come quella dell'Olanda, che ha da sempre dovuto darci un modello di gestione dell'acqua complessivo, perché loro sono emersi all'acqua e quindi lì hanno dei sistemi di governance avanzatissimi, hanno una tassa sull'acqua che poi viene gestita a livello locale, quindi si immagina una provincia chiede una tassa provinciale sull'acqua, c'è uno stakeholder meeting dove tra l'altro i cittadini sono in maggioranza, si concordano gli investimenti prioritari che possono essere la diga, il depuratore, il rinforzo di alcune per esempio dighe loro, e con un programma di investimenti che usano le risorse prese dal territorio, i cittadini insieme alle province e le municipalizzate decidono come investire quei soldi. Quindi questo è un modello che per noi è fantascientifico, ma di fatto è probabilmente uno dei sistemi che funziona bene e da maggior tempo, quindi con più storicità anche. Forse anche un progetto che si può riuscire a farsi, diciamo così, finanziare meglio, un progetto così integrato, così complesso. Direi di sì, perché ormai l'Unione Europea cerca progetti di grande scala, sistemici ed integrati. Quindi non va più a vedere la singola tecnologia, ma vede sempre la tecnologia dell'acqua, per esempio della depurazione, in funzione anche della depurazione di fanghi, non solo delle acque nere, ma anche di fanghi industriali, e poi la produzione di energia, per esempio. Quindi l'integrazione del ciclo dell'acqua con il ciclo dei rifiuti per la valorizzazione energetica è una delle aree in cui si sta investendo di più. Quindi anche il riuso, il riciclo, il riuso, la razionalizzazione sono tutti temi su cui Horizon sta investendo ormai dalla nuova programmazione 14-20. Ha già investito 1 miliardo di euro in quasi più di 200 progetti negli ultimi 2 anni, e adesso ce ne sono un po' meno, perché saranno 365 per i 16-17, e saranno grande parte di schemi di cooperazione sull'acqua internazionali. Quindi è un po' la logica anche dell'economia circolare applicata all'acqua, no? Esatto. È lo stesso principio. Proprio, ha detto proprio la parola magica, perché ci sarà uno dei bandi, sarà proprio sull'economia circolare applicata all'acqua, quindi è un bando che uscirà prossimamente. L'obiettivo è quello. L'Italia, oddio, parte un po' malino su alcune cose. Se guardiamo al passato, forse se guardiamo al presente, qualcosina si sta muovendo in questa direzione di governance un pochino più allargate, di progetti un pochino più grandi, mi pare, negli ultimi anni. Però adesso lei ha seguito il filone. Sì, sicuramente si va comunque verso l'integrazione, perché non è assurdo pensare all'acqua come tanti comparti separati, quando in realtà non lo sono. Ma ecco, ma lo stesso sentivo ad Abu Dhabi, che per esempio sarà vietato entro pochi mesi usare l'acqua potabile per irrigare i giardini. Quindi diciamo, è una cosa santa che dovremmo fare anche noi, Abu Dhabi, certo. Fare anche noi. Sì, quindi c'è tutto il comparto, poi, che forse è meno evidente per i non tecnici, che è quella della Internet of Things, quindi di tutta la sensoristica a bassissimo costo applicata al monitoraggio dell'acqua. Anche lì si apre un comparto che non esisteva e che deriva dagli investimenti che sta facendo l'Unione Europea sull'Internet of Things, per cui anche tutto ciò che è il monitoraggio, il controllo e un network di sensori, diciamo, sono le vere sfide su cui si stanno investendo miliardi di euro a livello europeo. Sì, sulle grandi non so come dire, impianti, insomma, strutture, sistemi, sicuramente sì. Sul piccolo mi ricordo di aver sentito, almeno per quel che riguarda l'Italia, l'autorità energia elettrica, gas e acqua, che diceva per esempio sui contatori intelligenti, cose così, che loro sì. Per ora no, è una cosa che uno può fare, ma che non la mettono in cima alla lista. Non la mettono in cima perché siamo adesso a finanziare la ricerca avanzata su questo, quindi ancora presto, non ci sono sistemi testati. Allora, l'amministratore pubblico non può rischiare, cioè questo è il problema dell'innovazione. Soprattutto sull'acqua non può rischiare. Ecco, sono aree, esatto, strategiche, dove non si può prendere una tecnologia che non abbia uno storico. Per cui è evidente, fa parte del gioco, che si sviluppino le tecnologie, se ne consolidano alcune, diventino standard, e a quel punto anche l'ente pubblico può pubblicare una gara con delle specifiche di un certo tipo. Purtroppo l'innovazione nel pubblico va molto molto piano, per questo motivo, per il fattore rischio soprattutto. Senta, la ringrazio molto. A lei. Buona giornata. Grazie. Era Francesco Pareti di Lubna, anche lui sarà a WOTEC, mostra convegno dedicata alle tecnologie, ricordo, per il trattamento delle acque ed il controllo ambientale, che è in calendario a Venezia dal 21 di settembre. Noi invece ci fermiamo qui e ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon ascolto.